100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Mentre il governo cerca faticosamente di mettere una toppa in questa frattura del caso del salvataggio bancari, continua ad essere molto alta la confusione su come accedere al famoso fondo di arbitraggio per recuperare almeno in parte i fondi perduti con i bond subordinati e soprattutto quello di tranquillizzare l'opinione pubblica. Se da una parte le quattro banche salvate e in particolare i loro clienti possono effettivamente fare sonni tranquilli, mai quattro banche sono state in Italia tanto sane come le Good Banks affidate a Roberto Nicastro, restano grandi perplessità sulle modalità operative che dovranno portare agli stessi rimborsi. Anche se si è fatta chiarezza intanto sulle cifre realmente in gioco, parliamo di circa 12.500 clienti retail colpiti e soltanto l'1% dei clienti della banca per 431 milioni di euro, però dalla stessa parte si dice anche che soltanto lo 0,1% di questi 12.500 rientrerebbero nella categoria dei rimborsabili. Ma come si faranno ad ottenere rimborsi? Su questo c'è ancora il buio fitto, il governo dice che farà dei regolamenti di attuazione, ma in realtà c'è soprattutto un punto che presenta zone d'ombra. Un arbitrato si fa infatti in tre: un attore, una controparte e un arbitro. Ma chi sarà la controparte se le banche non esistono più, le vecchie banche e gli amministratori non sono più in carica? La questione diventa sempre più complessa. Se in Italia, come avviene all'estero, fosse possibile rivolgersi alla giustizia per avere rapida soddisfazione delle proprie richieste, certamente il governo non sarebbe nemmeno entrato in campo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Il caso della Popolare dell'Etruria, il salvataggio delle quattro banche salvate dal decreto del governo e soprattutto il caso dei possibili conflitti di interesse emersi nella relazione tra il ministro Boschi e il ruolo avuto dal padre nella Popolare dell'Etruria sono stati un po' ignorati dalla stampa internazionale, forse un caso troppo piccolo per essere osservato fuori. Però ora ci è arrivato e ci è arrivato soprattutto in una parte: il rischio che il governo possa subire un attacco molto forte sulla questione del conflitto di interessi tra il ministro Boschi e la famiglia. In realtà quello che si sta cercando di far venire fuori è un po' lontano da quello che cerca e si domanda la stampa internazionale. Mentre in Italia si cerca di capire se delle informazioni preziose per la Popolare dell'Etruria possano essere trapelate nella relazione fra padre e figlia, all'estero si domandano una cosa: ma perché in Italia non vanno a chiedere direttamente al papà della Boschi se in qualità di amministratore di società industriali, oltre che di vicepresidente dell'Etruria, abbia avuto dei finanziamenti a tasso agevolato, ad esempio, per quali importi e se siano già stati restituiti? Le vere domande, insomma, non sono quelle su un conflitto di interessi sul piano delle informazioni ricevute, ma della stessa relazione fra l'amministratore di una banca e quella nel ruolo di rappresentante di imprese. In fondo il problema italiano è tutto lì, un conflitto di interessi fra gli interessi che possono essere di una banca e quelli che possono essere delle imprese e della collettività. Fare chiarezza su questo punto sarà determinante. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.